te che go un istante. Oh, mi fai ribrezzo. Chi è là? Eccellenza, l'angelotto è il nostro giunge reso uccise. E bello si appenda morto alle parche. E l'altro prigionier, il cavalier Cavaradossi. È tutto pronto, eccellenza. Aspetta. Ebbene. Modi! Ma libero all'istante lo voglio! Occorre simular! Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà. Ti m'assicuro. L'ordin che io gli darò, voi qui presente. Spoletta, chiudi. Ho mutato d'avviso. Il prigioniere si è fucilato. Attendi. Facemmo del conte Palmieri, sì, simulata come avvenne del Palmieri, hai ben compreso? Ho ben compreso. Va. Voglio avvertirlo io stesso. E sia, le darai passo. Vada, allora quarta. Sì, come Palmieri. Io tenni la promessa. Non ancora. Voglio un salvo condotto onde fuggir dallo stato con lui. Partire dove volete. Sì, per sempre. Si adempia il volo.